Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento per questa settimana con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Saluto il presidente Carlo Garofolini che è con noi al telefono. Ciao Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Con te Carlo oggi parliamo ancora per l'ennesima volta di arrivi di maxi bollette, che sono un po' la cosa che ci preoccupa di più, no? Avere improvvisamente una bolletta dove ci richiedono tantissimi soldi. Sì, sono quelle situazioni in cui a ciascuno di noi potrebbe cambiare completamente la vita, diciamo unicamente, ma non certamente perdendo di senso la realtà. È il caso tipico che poi vede sempre l'associazione dei consumatori, l'Adico in particolar modo, a che fare proprio con persone alle prese con queste bollette esorbitanti. In questo caso parliamo proprio di un valore della controversia di circa 8.000 euro. Quindi una bolletta del gas che è arrivata a un 43enne di Chioggia, che ovviamente poi ha chiesto aiuto a voi, come vi è già capitato in passato. Sì, allora il signore si è rivolto a noi all'Adico perché un bel giorno gli è arrivata una bolletta di circa 2.800 euro. E richiedendo spiegazioni poi di cosa è accaduto, ha scoperto la mala sorpresa che non sarà l'unica ad arrivare, ma gliene arriverà nei prossimi giorni un'altra da circa 5.000. Quindi una situazione che ha indotto subito la persona a correre da noi e a denunciare un po' la situazione, in cui alla fine lo vedrà nei confronti dell'ENI una vicenda, come abbiamo detto, di importo di circa 8.000 euro per effetto di una bolletta del gas che per l'ENI negli ultimi 6 anni sostanzialmente non è mai stata pagata, ma soprattutto una situazione che si è determinata malgrado la buona volontà del signore di volersi regolarizzare in questi anni, di cui il fornitore non ha mai saputo invece mandargli una bolletta o effettuare una benché sorta minima lettura del consumo che è stato effettuato in questi giorni e in questi anni da quando la persona l'ha visto cliente di questa società. Sì, mi sembra una situazione che in qualche modo abbiamo già raccontato, cioè per un tot non ti arrivano le bollette, tu chiedi che qualcuno ti dica quanto devi spendere e quanto devi pagare, poi improvvisamente ti arriva questa maxi bolletta che ovviamente poi è difficile da gestire. Beh, innanzitutto bisogna dire che è proprio merito del signor del socio che caparbiamente ha sempre cercato di risolvere questa sua situazione e oggi ha fatto questa mala scoperta, ma ci sono situazioni anche tipiche dove le persone, rimanendo in attesa che arrivi la bolletta, poi si trova addirittura a debito in banca ancora prima che arriva l'invio a cartaceo. Certamente bisogna dire che oggi c'è una normativa che comunque permette anche a queste società di fare un po' il bello cattivo tempo, perché se da un lato una persona non riceve la bolletta o non ha ricevuto i consumi reali, certamente permette a chi gestiscono questi servizi di poter ricalcolare e rivedere quelli che sono gli ultimi 5 anni. Una normativa che secondo noi deve essere colmata, perché non è pensabile che almeno una volta all'anno non ci sia un aggiornamento di quello che è il consumo reale, a prescindere da quelle che sono le letture effettive o meno, che poi comunque ricordiamo agli ascoltatori non può permettere a un fornitore di andare oltre i 5 anni, quindi non si può richiedere i 6 anni ma il limite è 5, perché si può sempre invocare la prescrizione dei 5 anni. Però certamente una vicenda questa che vogliamo sempre approfittare di raccontare, perché come hai detto tu a ciascuno di noi può capitare in un giorno di ricevere questi importi esosi. L'ufficio dell'Adico in questo caso come si sta muovendo? Beh, subito abbiamo bloccato la richiesta di pagamento. Abbiamo preteso che ci venisse notificata anche noi la prossima bolletta di oltre 5.000 euro, poi andremo ad analizzare quelli che sono stati i metodi di calcolo che la società ha adottato per quantificare questo valore, andremo poi a fare le verifiche se questo valore poi sia corrispondente a una lettura reale che possa tenere conto di quello che è un consumo che una persona può avere normalmente, perché se chi paga circa 100 euro al mese si trova improvvisamente una bolletta da 5.000 euro, possiamo anche mettere in discussione quello che può essere, adesso provo anche a fare io il contatore, quindi tanti elementi che bisogna analizzare tutti quanti, e poi certamente una volta arrivati al valore bisognerà assieme ragionare su quelle che possono essere le modalità di rientro. Ecco, da segnalare quindi che se per caso non vi arrivano le bollette, è bene cercare di chiederle, perché poi succedono queste cose qui. Evidentemente questo signore di Chioggia lo aveva fatto, ma senza ottenere risposta. Questo signore l'ha sempre fatto. Dobbiamo anche dire che in questo caso, Leni in particolar modo, perché in questo caso possiamo annunciarlo, tende molte volte nei casi in cui noi normalmente trattiamo a non essere regolare sull'invio delle bollette. Ricordiamo che a volte ci sono le persone, come il caso tipico di oggi che stiamo raccontando, che ha fatto di tutto perché voleva pagare, ma in tutti questi anni si è trovato comunque sempre ad essere imbalzato da un muro di gomma da operatori che per un motivo o per un altro hanno sempre cercato di trovare una giustificazione. Certo è che il consumo effettuato va pagato, però arrivare a questo punto di una pratica vale la pena adesso a questo punto fare tutta una serie di verifiche e trovare un accordo, perché qua insomma c'è stato sicuramente una mancanza da parte di tutti e del fornitore in primis. E allora, sempre grazie all'Adico, magari insomma si trova una giusta rateizzazione, un giusto sistema per riuscire a venirne a capo. Ricordo il sito associazionedifesaconsumatori.it per avere ulteriori dettagli e ragguagli con l'Adico. Ringrazio il presidente Carlo Garofolini, ci risentiamo tra un paio di giorni. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.